Chiediglielo! Non ce lo puoi chiedere niente. Ho fatto quello che ho fatto, non devi sapere altro. A partire da ora resterò zitto. You're listening to Roy Audio Tune. È il peso delle parole, quelle dette bene. Quelle per averne ce ne vuole, ma se devo pure scriverle mettendo le pause mi viene un vuoto e finisco a cazzeggiare sulla base. Non sono stato più di tanto a ragionare, ragion per cui nella testa ho lunghi corridoi. E ciò che fui ogni tanto riemerge, ma comunque non regge perché non comanda lui. Voglio conoscere, parto e vado da loro, poi ritorno puntuale, presente al vero lavoro. Ma cos'è il vero? Ciò che vivi è solo un desiderio, è quello che è davvero che ti rende serio. Quello che porti dentro, l'ansia, il risentimento, il nervoso e lo stress, e lo sento sei come me alle strette. Uno dei tanti, sette notti su sette, occhi stanchi aspettando che se ne riparli. Quando speri di trovare una risposta che non è dentro di te, e voglio cercare, e voglio cercare, e voglio cercare, a cercare. Quando speri di trovare una risposta che non è dentro di te, e voglio cercare, e voglio cercare, devi ancora imparare tanto di te. Dormo poco e fumo la mattina presto, per questo è tutto veramente sconnesso. Le mie frasi hanno niente di che, niente di te, ma che c'è? No, niente, e poi ce l'hai con me. Siamo ragazzi tutti pieni di sé, pieni di forze, con le facce bianche e pallide, con i lavori precari e notti trascorse a bere, e con in bocca sempre scuse valide. Sulle mani se fai parte di un gruppo, perché vada come vada, raga, spacca di brutto. Vivo i complessi da scrittore, il blocco, e allora faccio almeno un CD doppio di botto. Chiusi in casa quando piova di rotto, con il sole cocente in costume cappotto. Questo XXX fine c'hai rotto, in tutte le notifiche ci appare sotto. Quando speri di trovare una risposta che non è dentro di te, e voglio cercare, e voglio cercare, e voglio cercare, a cercare. Quando speri di trovare una risposta che non è dentro di te, e voglio cercare, e voglio cercare, devi ancora imparare.